2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 14 febbraio 2009, benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo digitale è 2024, scritto in cifra, quindi 2024 e radio24.it. Anche questa puntata sarà disponibile sul nostro sito internet www.radio24.it. Vi consigliamo come sempre di abbonarvi gratuitamente al servizio podcast per scaricare settimana dopo settimana il file MP3 della nostra trasmissione. Oggi parleremo di digitale terrestre tra poco e nella seconda parte di WiMAX sarà con noi poi anche il direttore di Wired Italia. Vi anticipo che la prossima settimana quasi tutta la nostra puntata sarà dedicata al mondo della telefonia mobile, con tutte le novità in arrivo da lunedì al Mobile World Congress che si svolge come di consueto a Barcellona. Si tratta della più grande fiera dedicata al mondo della telefonia mobile, ma oggi è meglio dire della mobilità. Questa settimana la Casa Bianca ha assegnato a Melissa Hathaway il compito di fare una revisione della sicurezza informatica federale. Avrà 2 mesi di tempo. Esiste quindi, ed è una notizia interessante, negli Stati Uniti una persona che si occupa del cybercrime e delle difese del governo. Un'unica persona che ha la responsabilità del coordinamento di tutto quello che fa il governo federale. È molto interessante, qua veniamo all'Italia, la sperimentazione che è iniziata in alcuni negozi di Pesaro, Fano, Cattolica e Gabicce Mare, quindi siamo al confine tra le Marche e la Romagna, da Banca Marche in collaborazione con Mastercard, Cartasì e Quercia Software per i micropagamenti con carta di credito offline. Che cosa significa? Significa che per importi inferiori ai 25 euro non si dovrà attendere il collegamento con la centrale della carta di credito che autorizza il pagamento, quindi il tutto sarà istantaneo come succede con i soldi veri di carta o di metallo, non ci sarà nemmeno bisogno della firma, il sistema funziona avvicinando una carta di credito con chip RFID ad un lettore. Di questo, di questa tecnologia, di questa possibilità abbiamo parlato circa un anno fa, ma adesso comincia la sperimentazione vera e propria. Torneremo sull'argomento perché lo ritengo estremamente interessante. C'è un'altra notizia che vorremmo approfondire all'inizio di questa puntata che riguarda uno dei grandi nomi della tecnologia dell'audio video, ovvero Pioneer, che pochi giorni fa ha annunciato, pensate, l'abbandono del mercato dei televisori. Ne parliamo e saluto Gianfranco Giardina, direttore di AF Digitale, il nostro esperto di audio e di video digitale. Gianfranco, bentornato a 2024. Grazie mille, bentrovati a tutti gli ascoltatori. Pioneer abbandona il mondo dei televisori. È una notizia che sorprende oppure no? Mi sembra che tu avessi scritto qualche cosa del genere qualche mese fa su AF Digitale. Beh sì, quando un anno fa circa Pioneer ha annunciato di sospendere la produzione di pannelli, che non vuol dire sospendere la produzione di TV, ma ha di fatto trasferito tutta la propria tecnologia e tutto il proprio centro studi sui pannelli al plasma a un'altra azienda che è Panasonic. Quindi ha venduto il know-how. Ha venduto di fatto anche proprio il centro di ricerca e sviluppo, il gruppo, il team di sviluppatori. Si era riproposta di continuare comunque ad operare nel business dei TV acquistando pannelli da Panasonic stessa. Tra l'altro, iniziando ad acquistarli, praticamente il piano prevedeva intorno alla metà del 2009, quindi continuare a lavorare con i propri pannelli fino più o meno a questa stagione e poi iniziare. Benissimo, quindi come che io sia un produttore di automobili, tu sei un altro produttore di automobili, decido di vendere i motori a te e poi dico io continuo a fare le automobili ma compro il motore da te. Precisamente così. In un mercato molto competitivo, con prezzi comunque in costante deflazione, quindi a ribasso, è molto complicato pensare di restare sul mercato e competere senza avere la produzione diretta del componente fondamentale, quindi del motore, quello che chiamiamo il motore, cioè il pannello. Per questo noi avevamo previsto che in realtà era una mossa abbastanza di corto respiro, cosa che poi si è verificata perché appunto giovedì di questa settimana Pioneer ha annunciato ufficialmente la propria intenzione, ovviamente anche a causa della crisi mondiale, di tutto certo, quello che certo, ne consegue, di interrompere la produzione anche dei TV, quindi di uscire completamente dal business dei TV, ovviamente gradualmente, perché ci sono ancora delle code di produzione, degli stock dei prodotti, di uscire a quest'altro anno, sì, diciamo col marzo del 2010, a fine quindi dell'anno fiscale, sì, prossimo giapponese, che finisce appunto a marzo, interrompere completamente. Peraltro Pioneer ha annunciato che comunque continuerà ad assistere e a dare servizio appunto di riparazione e assistenza su tutti i TV, sia quelli già venduti fino ad oggi che quelli che verranno venduti ancora nell'ultimo anno. La cosa ovviamente potrebbe essere archiviata nell'uscita di un produttore da un mercato, però... è un pochino più rilevante delle magari altre notizie che sentiamo, perché Pioneer è considerata un po' da tutto il mercato il riferimento qualitativo per i TV, quindi un TV di alta qualità sicuramente non poteva essere preso in considerazione se non guardando nel catalogo Pioneer e di pochissimi altri competitor che potevano in qualche modo avere prestazioni simili. Quindi diciamo che il mercato è abbastanza concorde nel ritenere che Pioneer produca i pannelli migliori, cioè le TV migliori. Sì, direi di sì, per la qualità d'immagine sì. Poi in termini di posizionamento di prezzo, in termini di comunicazione, in termini di altri fattori che comunque poi determinano la vendita, non si è così concordi che Pioneer abbia fatto bene, ma sicuramente il reparto di ricerca e sviluppo di Pioneer ha lavorato meravigliosamente. Quindi diciamo che la mossa di Panasonic di acquistare il know-how di Pioneer è una buona mossa. Assolutamente sì, anzi è un grande affare, a patto che Panasonic riesca a fare quello che Pioneer non è riuscito a fare. Quindi, cioè a vendere le TV. Sì, a vendere delle TV, perché quello che Pioneer ha fatto fino a oggi è comunque vendere dei TV meravigliosi, ma a un prezzo sensibilmente più alto dei propri competitor, anche doppio rispetto a TV di pari dimensioni, e anche diciamo di pari prestazioni teoriche di targa. Poi la qualità d'immagine ovviamente del TV poi parla da sé. Panasonic ce la farà, cioè ce la farà a offrire la medesima tecnologia, le medesime prestazioni con prezzi più bassi, più accessibili, perché poi si è visto che come spesso accade in elettronica il posizionamento di prezzo non è un fattore irrilevante. Questo è interessante, perché sempre per continuare con il paragone che abbiamo fatto con l'automobile, mentre per le automobili molti sono alcuni diciamo così sono disposti, anche quelli che possono comunque sono disposti a spendere molto di più per la qualità, per l'elettronica non capita così. Sicuramente la qualità viene tenuta in buon conto, soprattutto quando si vede, e nel caso dei TV si vede. Sì. Però diciamo il comportamento medio dell'acquirente è quello di destinare a un premio di qualità un 20-30% in più, ma non arrivare a prezzi pressoché doppi, come è accaduto molte volte per esempio con Pioneer. Ma in altri mercati di beni durevoli o semidurevoli invece questo accade tranquillamente. Non parliamo ovviamente, l'abbigliamento va da sé, ci sono golfini da 10 euro al mercato o da 500 euro, quindi le differenze sono anche molto più marcate. Però lì qualcuno potrebbe dire stiamo parlando di moda, però per esempio nelle automobili come citavi le differenze di prezzo sono molto più alte, cioè c'è una propensione maggiore a premiare la qualità, percepita o vera che sia, ma comunque a premiarla. Esiste, esatto, è un dato di fatto. Nel mercato elettronica di consumo è praticamente impensabile avere un TV che costi 2-3 volte un TV di pari dimensione, ma entry level. E questo possiamo entrare a interrogarci per ore sul perché. Sicuramente non è un comportamento neanche, se vogliamo, razionale e neanche troppo giusto, anche perché poi si vede quello che succede, porta fuori mercato prodotti magari validi, forse gestiti male, perché poi alla fine per avere un prodotto di un prezzo nettamente più alto magari richiederebbe strategie di comunicazione, di canale, di distribuzione diverse che non sempre vengono messe in atto. Se un TV che costa molto di più lo trovo banalizzo al supermercato, ecco, certo che probabilmente non è il luogo giusto per valorizzare il prodotto maniera adeguata. Sì, diciamo, oltre al centro ricerche, oltre ai bravi ingegneri, ci vogliono anche tutte le altre parti dell'azienda che funzionino a dovere. A volte ci sono aziende che invece hanno magari dei mediocri ingegneri che sono molto capaci in altre parti, quindi vendono molti prodotti. Sì, sì, certo. Senti, tu dici che nel futuro molto probabilmente, anzi quasi sicuramente, rimarranno solamente i produttori di TV che fanno tutto, quindi che sono integrati verticalmente, cioè io produco il pannello, quindi che sia plasma o LCD, e produco poi tutta l'elettronica che fa funzionare il pannello, quindi la TV vera e propria. Quindi rimarranno pochi produttori. Beh, tutto lascia pensare che finirà così, perché le economie che riescono a raggiungere chi produce i pannelli, e possibilmente li produce anche in aree del mondo dove il costo del lavoro e la manodopera e anche delle infrastrutture, se vogliamo, dei servizi è più basso, ecco, queste aziende riescono a competere meglio e riescono sicuramente, visto che poi sono loro stesse che forniscono i pannelli a chi invece non li produce, riescono a guidare e controllare le dinamiche di prezzo in maniera precisa, cosa che invece non può fare chi compra pannelli da terze parti, perché di fatto ha il componente più importante del TV, e anche quello più costoso ovviamente, che viene fornito di fatto da un proprio competitor, non da un proprio fornitore. Sì, che non, quindi, ha molta convenienza a darti. E quindi guida, decide che generazione di pannello dà, in che tempi e a che prezzi. E quindi in qualche modo può anche determinare il successo o l'insuccesso del proprio competitor sul mercato. Pannelli vengono ancora prodotti in Corea e in Giappone, praticamente? Fondamentalmente Corea, Giappone, Taiwan e comunque un po' di Cina, diciamo, forse. Diciamo sì, Cina e tutta la parte, insomma, dell'est asiatico. Ma poi l'assemblaggio invece viene fatto, viene delocalizzato normalmente anche in Europa. Quindi sono molti produttori che hanno per esempio delle linee di assemblaggio di TV, per esempio in Polonia, in Ungheria, quindi nell'est europeo, che si presta particolarmente proprio per i costi della manodopera, ma anche per l'abbattimento dei dazi ovviamente. Digitale terrestre, allora stiamo parlando naturalmente di TV, il mondo della televisione anche in Italia cambierà molto presto. Tra parentesi, ricordo che esiste anche negli Stati Uniti il passaggio al digitale terrestre, che hanno fatto una cosa all'italiana negli Stati Uniti, cioè hanno rimandato di qualche settimana lo switch off, quindi lo spegnimento delle frequenze analogiche, per passare completamente al digitale. Certo, le cose sono un po' più complesse perché gli Stati Uniti sono più grandi di tutta l'Europa, anche se ci abitano un po' meno persone, però insomma, lo switch off esiste anche negli Stati Uniti. Hanno in alcuni casi alcuni problemi simili ai nostri, cioè banalmente mancano in alcune aree gli scatolotti, cioè i decoder per vedere la TV digitale. Chiusa la parentesi, Gianfranco, io pochi giorni fa parlavo con un collega e dicevo: tu che cosa ne sai del digitale terrestre? E lui mi dice: nulla, ma non mi interessa nulla. Adesso invece però la maggior parte degli italiani dovranno cominciare ad interessarsi al digitale terrestre. Veniamo nella fase più difficile, diciamo, quelli che erano entusiasti del digitale terrestre, lo ritenevano una cosa interessante, già in qualche modo ci sono passati, hanno un TV col decoder integrato o hanno un decoder esterno collegato al proprio TV. Ora incomincia il grande calendario dello switch off, che poi potremmo anche chiamare spegnimento semplicemente, esatto, all'italiano, esatto, delle frequenze analogiche, e quindi anche coloro, i resistenti, chiamiamoli così, che non volevano passare al digitale o semplicemente non sono interessati, e dovranno prenderlo in considerazione, oppure dovranno scegliere di non vedere la TV, che è anche un'altra scelta che è pure aperta. Sentiranno più Radio 24 e questo... Io considero questa una buona opzione. Io la TV la guardo veramente molto poco, perché giudico la qualità veramente molto bassa, tranne pochi canali, però insomma la TV fa parte del nostro mondo, quindi molti giustamente la guardano. Ecco, tu dicevi bisognerà cominciare a prenderla in considerazione, perché già da domani succede qualcosa nel continente. In Sardegna abbiamo già capito che siamo passati al digitale terrestre, anche in Val d'Aosta mi pare. Val d'Aosta siamo in corso, non è ancora spento tutto. Da domani la provincia di Trento e alcuni comuni adiacenti, anche qui è difficile contenere le trasmissioni via etere sulle confini territoriali politici che nulla hanno a che vedere con le montagne o con le vallate, ecco. E quindi diciamo nella zona di Trento e alcuni comuni anche di province limitrofe incominceranno a spegnersi i primi canali analogici e verranno spostati soltanto sul digitale, quello che in termine tecnico viene chiamato switch over, ma che io anche qui preferirei incominciare a chiamare accensione, sostituzione, lo spegnimento di alcune frequenze analogiche che passano sul digitale. Quindi tipicamente da domani, cioè da questi giorni, chi vorrà vedere alcuni canali, quelli che verranno spenti, poi dipenderà probabilmente da area ad area, senza un decoder digitale non potrà più vederli. Quindi si prevede che alla mala parata, non vedendo più determinati canali, anche i resistenti, anche coloro che fino a ieri non volevano interessarsene, dovranno poi incominciare a considerare, incominciare a orientarsi tra termini come MHP, Zapper, CAM e altre diavolerie, le chiamo così, come le chiamano questi resistenti, no? Che non sono propriamente termini così vicini agli utenti. Sì. Dunque, diciamo che il calendario, il programma dello spegnimento dovrebbe terminare nel 2012, ma ci sono alcune aree del paese che già in queste settimane, in questi mesi o comunque già quest'anno subiranno questo cambiamento di tecnologia. Stiamo parlando di digitale terrestre con Gianfranco Giardina, direttore di AF Digitale, ponendoci alcune domande che molti ascoltatori ci fanno e che ben pochi pubblicizzano, di cui si parla molto poco. Tra poco parleremo di videoregistrazione, perché anche qua cambiano le cose, ci saranno seri problemi. Gianfranco, che cosa succede per chi ha una TV normale, analogica, tradizionale? Addirittura un ascoltatore mi ha scritto dicendo: io ho 6 TV in una casa, che cosa bisogna fare? Sostituire tutte le TV? Quella è una scelta, forse la più costosa, e poi anche quella, diciamo, con il massimo impatto per l'ambiente. Io starei attento anche a questo aspetto, visto che siamo tutti molto attenti all'ambiente e ai consumi. La scelta, ahimè, è quella di acquistare un decoder per ogni TV. Non c'è un'altra soluzione, non si può mettere un decoder centralizzato, perché vorrebbe dire avere tanti decoder centralizzati, allora tanto vale metterli decentrati. Un decoder sintonizza un canale per volta, e quindi se io mettessi anche un canale centralizzato, un decoder centralizzato, e decidessi di modulare poi sull'antenna analogica il segnale ricevuto, quando cambio un canale cambiano tutti, e quindi non avrei più 6 TV indipendenti, avrei un TV solo. Sì. Quindi l'unica soluzione è quella di acquistare 6 decoder, nel caso di 6 TV, ma comunque un decoder per ogni TV, e associarlo, il che ha dei limiti, dei difetti, non soltanto dovuti al costo dei 6 decoder, ma al fatto che in alcune situazioni proprio di ambientazione del TV, penso a una TV in cucina, appoggiati su una mensolina, attaccati alla parete, nella camera da letto, in altre situazioni, bisogna trovare lo spazio per questo scatolotto. E poi si aggiunge un telecomando. Quindi il TV va acceso dal telecomando del TV, ma il canale si cambia dal telecomando del decoder, unendo poi anche al fatto che dobbiamo aggiungere un cablaggio, cioè tra il decoder TV ci va quantomeno una presa SCART, cioè un cavo SCART. Il segnale di antenna che arriva e normalmente va nel TV, invece deve andare nel decoder. Potrebbe anche bastare solo questo se si passasse istantaneamente dalle frequenze analogiche a quelle digitali, ma siccome c'è appunto questa fase di switch over interregno, in cui alcuni canali incominciano a passare proprio per stimolare il passaggio al digitale, cioè due cavi di antenna, bisogna avere semplicemente il cavo d'antenna entra nel decoder e poi un altro cavo d'antenna esce dal decoder ed entra nel TV. Mamma per mia. Permettere la sintonizzazione dei canali analogici, quindi vuol dire comprare anche un altro cavo d'antenna. Quindi anche in termini di installazione, anche se stiamo parlando di cose molto semplici, ma mi immagino all'utente assolutamente despecializzato, magari di una certa età, il pensionato, la pensionata. No, ma ti garantisco anche dei trentenni, quarantenni, potrebbero non ci capiscono avere nulla. Sì, sì. Anche piccoli problemi di installazione. E poi c'è il discorso, tutto il grande mondo della videoregistrazione. Ah, attenzione, fermati un attimo. Allora, questi problemi che tu hai evidenziato, se uno compra una TV nuova, non ci sono. Cioè, nella TV nuova c'è già il decoder integrato, io la utilizzo come le vecchie TV. Assolutamente sì. Non solo, le TV nuove, ovviamente, oltre a sintonizzare canali digitali, sintonizzano anche quelli analogici. Mm. Va da sé. Vabbè, certo. E quindi anche per tutta la fase intermedia, con un TV solo, si va a posto. Poi, da un certo punto in poi, si smetterà di andare sulla parte analogica del TV per vedere soltanto solo i canali digitali. Perfetto. Dunque, tra poco parliamo della videoregistrazione, perché questo fa sorridere, però purtroppo molti si scontreranno con una serie di problemi che invece non li faranno sorridere. Prima volevo chiederti, sul lato della qualità dell'immagine, anche della capacità, insomma, di questo segnale di arrivare poi nelle nostre case, ci sono problemi? Cioè, il digitale terrestre si vede bene? Risposta che in scienza e coscienza è impossibile dare, perché sì, il digitale terrestre è una codifica, comunque una codifica compressa, e il livello di compressione viene deciso anche momento per momento dall'emittente. Ah. Quindi io posso avere un canale che alle 10 del mattino si vede meravigliosamente e lo stesso canale alle 8 di sera, semplicemente perché serve banda su altri canali, perché magari ci sono le partite, ecco che si vede malissimo. Quindi come si fa a dire? Potenzialmente tutti i canali digitali si potrebbero vedere bene, direi molto meglio di quelli analogici, non perché la codifica digitale sia necessariamente migliore, ma perché ovviamente eliminiamo a monte tutti quei disturbi analogici d'antenna che poi un po' tutti ci troviamo, mm-hmm, perché siamo distanti dall'antenna di trasmissione, perché il cablaggio non è esemplare, perché ci sono delle riflessioni sul segnale che ci danno l'effetto tipico neve piuttosto che gli sdoppiamenti, sì, sull'analogico, sì, sì. Questi sul digitale non esistono più. Però se l'emittente comprime eccessivamente il segnale, ecco che incomincio a vedere degli squadrettamenti, ecco che incomincio a vedere dei macroblocchi, ecco che il calciatore diventa una specie di omino della Playmobil, quindi un po' meccanico, un po' squadrettato, e quindi la qualità può anche deteriorarsi. In linea di massima, però, possiamo dire che la qualità percepita è migliore, soprattutto con i pannelli digitali LCD, che, o plasma, sì, cioè, diciamo più gli LCD, che uh-huh, hanno il problema, un limite, di enfatizzare in un certo qual modo i disturbi analogici d'antenna. Ah, ok, quindi col digitale migliora. Beh, l'analogico non si vede benissimo, qualcuno rimpiange il vecchio tubo catodico quando porta a casa un nuovo TV guardando la trasmissione analogica tradizionali, ecco, questo problema col digitale poi di fatto scompare. Ok, videoregistrazione. Allora, ci sono degli amanti della videoregistrazione, giustamente, in alcuni orari della giornata o della sera fanno altro, ma sono interessati ad alcuni programmi televisivi. Che cosa cambia con il digitale terrestre? Immagino, banalmente, nel nostro videoregistratore c'è un ricevitore analogico, non riusciremo più a ricevere direttamente sul videoregistratore, quindi a registrare i canali della TV digitale terrestre, giusto? Sì, non tutti ci pensano, ma in ogni videoregistratore, sia che sia VHS, sia che sia un DVD recorder, qualsiasi ordine e grado, c'è un sintonizzatore all'interno che sintonizza i canali, indipendentemente da quello che vediamo sul TV o anche dal fatto se il TV è acceso o no. Quindi il videoregistratore, se è programmato, alla tal ora si accende, si sintonizza su quel canale e registra. Ovviamente tutti i vecchi videoregistratori, lasciatemi chiamare così, anche se sono magari prodotti che sono tuttora in vendita o venduti pochi mesi fa, quindi i vecchi, quelli che non hanno un circuito di sintonia digitale, ma sono in grado di sintonizzare soltanto i canali analogici, non potranno più sintonizzare autonomamente i canali. Questo che cosa significa? Potranno continuare a registrare trasmissioni digitali, ma appoggiandosi a un decoder esterno. Oppure potrebbero anche in teoria appoggiarsi, con qualche limite, anzi direi con molti limiti, alla sintonia di decodifica del TV. Però adesso, se vuoi, magari vediamo anche i casi, sì, specifici. Col problema che se io voglio videoregistrare, in quel caso devo guardare quel canale. Ecco, se io voglio videoregistrare utilizzando il decoder interno alla TV, non posso fare nient'altro che videoregistrare quello che la TV sta facendo vedere. Mm. Quindi il TV deve essere sintonizzato sul canale che voglio registrare e deve essere acceso, che è un limite Sì, a cui comunque non siamo nemmeno abituati. Ma il 95% delle videoregistrazioni viene fatto per motivi di time shifting, quindi per spostare nel tempo la visione rispetto alla messa in onda. Cioè perché io registro. Non sono a casa, perché sì. Solo un 5% delle videoregistrazioni viene fatta perché la cosa che sto guardando, il programma che sto guardando è così interessante che voglio anche conservarlo. La partita del secolo, mia mamma in TV, non so, per qualsiasi motivo, voglio registrarlo, allora lo guardo e contemporaneamente lo videoregistro. In questo caso è molto semplice, guardo, accendo il videoregistratore sull'ingresso e registro. Però è chiaro che per tutte le operazioni di time shifting il sistema non si presta, perché dovrei lasciare il TV acceso, non ha senso. Qual è il consiglio che tu dai? Perché qua entriamo in mille casistiche. Allora, a medio termine è chiaro che tutto migrerà verso sistemi di videoregistrazione con la capacità di sintonizzare i canali digitali. Già ci sono dei DVD recorder e hard disk recorder con il tuner digitale. Chi ha comprato questo tipo di apparecchi, magari spendendo qualcosa in più qualche mese fa, ecco, ha fatto una scelta comunque giusta, perché potrà continuare a usare questi apparecchi senza problemi. E questa è la soluzione, quella che non ci farebbe sentire la differenza. Differenze e novità. Collegare un decoder esterno al videoregistratore è una scelta comunque possibile. C'è una complicazione abbastanza grossa. Mentre fino a ieri noi programmavamo il videoregistratore dicendo vai sul canale 3 dalle 8 alle 9 e registra, ecco, in questo caso noi dovremmo dire vai sull'ingresso esterno dalle 8 alle 9 e registra, poi andare sul ricevitore e dire mettiti sul canale 3. Quindi fare una sorta di doppia programmazione manuale, dicendo al videoregistratore quando deve registrare e al decoder cosa deve registrare. Non è propriamente una soluzione facile, no? E poi sbagliarsi è semplicissimo, quindi uno pensa di aver registrato il film che gli interessa e poi invece ha registrato il reality o il talk show a cui non era interessato. Bene Gianfranco, io ti ringrazio per le informazioni che ci hai fornito. Potremmo metterle nel capitolo quello che gli altri non vi dicono, perché soprattutto sul lato videoregistrazione mi sembra che quasi nessuno dica quello che succederà con il digitale terrestre. Ricordiamo che a proposito di TV, sul numero di AF Digitale in edicola c'è un fantastico, fantastica anteprima di una TV che è spessa addirittura, pensate, un centimetro. Ne abbiamo parlato anche a 2024, lo speciale dedicato al Consumer Electronic Show di Las Vegas. Gianfranco, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, a presto. Grazie mille. Seguiteci ogni settimana il sabato nel pomeriggio di Radio 24 tra le 15.30 e le 16.30, oppure online sul nostro sito internet www.radio24.it. Nelle pagine di 2024 trovate tra l'altro i riferimenti ai nostri ospiti, i link utili che abbiamo citato in trasmissione, ma soprattutto vi ricordiamo di abbonarvi gratuitamente al servizio podcast per scaricare settimana dopo settimana il file MP3 della nostra trasmissione. Se non trovate la strada giusta o avete qualche difficoltà per trovare i software e abbonarvi al nostro servizio, sono poche e semplici operazioni, potete scriverci una email a 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini e adesso proseguiamo, parliamo di WiMAX. Sapete che ci occupiamo di questa tecnologia da circa 3 anni, vi abbiamo raccontato tutte le fasi dell'arrivo di questa tecnologia wireless senza fili in Italia, anche molte delle caratteristiche tecniche. Una tecnologia che viene utilizzata prevalentemente per portare internet soprattutto dove non esiste l'ADSL. Alcuni servizi sono già partiti in Italia, sicuramente c'è molto interesse per le mosse del principale operatore del settore, ovvero Aria. Oggi è con noi l'amministratore delegato Mario Citelli. Benvenuto a 2024. Grazie e saluto a tutti. Diciamo subito che voi un tempo vi chiamavate Aria DSL, oggi la DSL non ha più ragion d'essere e è rimasto solo questo nome, che in qualche modo ci ricorda che stiamo parlando di una tecnologia senza fili che quindi utilizza l'aria. Esatto, noi ci siamo trovati con questo bel nome scelto, anche se poi unito per ragioni opportunistiche all'espressione DSL dai nostri, diciamo, soci che avevano costruito l'azienda in Umbria in precedenza. E Aria ci piace molto, diciamo, credo che rende molto l'idea di un servizio wireless. E tra l'altro, diciamo, fra poco porteremo sul mercato il nome del sito www.aria.com che abbiamo rilevato perché... Sì, raccontiamo questo particolare che è interessante. Lo abbiamo rilevato perché come chi in qualche maniera ci ha già contattato sul web avrà visto, noi avevamo prima aria.dsl.it, poi l'abbiamo, avendo tolto DSL, trasformato in aria.it, perché il sito aria sia .it che .com era di proprietà di altri ed era diciamo non disponibile se non a caro prezzo. Alla fine abbiamo comprato aria.com da una compagnia di assicurazione americana e l'abbiamo pagata significativamente, perché l'abbiamo pagata 40.000 euro. Quindi insomma avere una presenza su internet è talmente importante che costa parecchi migliaia. Intanto diciamo, siamo ad una radio, noi abbiamo cominciato a fare un po' di propaganda, un po' di pubblicità radio, e l'espressione andate sul sito e cercate aria.com è facile sì, da dire ed è facile da ricordare, quindi è come avere una vetrina interessante, la vetrina costa. Vediamo la tecnologia, dunque vorrei ribadire, approfitto della presenza di Mario Citelli per ribadire di che cosa stiamo parlando. Voi siete un operatore che ha comprato licenze per coprire nei prossimi mesi tutto il territorio nazionale con tecnologia WiMAX. Di che cosa stiamo parlando? Allora, stiamo parlando di frequenze, stiamo parlando quindi di quello che in tecnologia, ma anche in politica economica, viene definita una risorsa scarsa. Le frequenze da sempre sono state assegnate attraverso gare, sia per quanto riguarda l'Europa che per quanto riguarda gli Stati Uniti. Posso citare una recente gara sui 700 MHz negli Stati Uniti che ha raggiunto cifre incredibili dal punto di vista del valore delle frequenze. In Italia queste frequenze, nella banda intorno ai 3.5 GHz, se qualcuno vuole un dettaglio tecnico, erano frequenze appannaggio dei militari che le usavano per il sistema radar italiano. Il sistema radar ha cambiato tecnologia, ha cambiato frequenze, quelle frequenze quindi sono rimaste libere. Il Ministero della Difesa ha fatto un po' di ostruzionismo nel concederle, poi alla fine con il governo, quando il Ministro delle Comunicazioni era Gentiloni, questo processo si è liberato e quindi queste frequenze sono state messe a gara. E noi le abbiamo vinte in una gara che era un'asta, quindi una gara in cui poi vinceva chi offriva di più. Il vantaggio di avere una frequenza cosiddetta licenziata sta nell'avere una frequenza protetta, in cui quindi l'uso della frequenza è regolato e quindi non ci possono essere interferenze, non ci possono essere canali che si sovrappongono. Questo è il WiMAX. Sì, quindi noi siamo abituati quando parliamo di internet e di computer a una tecnologia oramai molto diffusa che è il WiFi. In quel caso invece la frequenza è libera, quindi ci possono essere interferenze non solo, ma la portata del WiFi è anche minore. Sì, limitata. Quindi WiMAX ha una portata maggiore e quindi permette già ora di offrire, diciamo, la nostra offerta commerciale in questo momento ha due tagli 4-7 megabyte, che quindi sono dei tagli significativi di banda, e il WiMAX ha una portata per di più dell'antenna intorno a qualche chilometro, quindi alla fine stiamo parlando di una rete che dà una copertura indoor, quindi con un segnale che arriva nelle case, con una capacità di servizio paragonabile, direi migliore, della DSL, ma comunque paragonabile. Voi dite migliore, poi naturalmente chi offre la DSL... Competitiva, sì, diciamo, sì, così, però senza fili. Sì, esattamente. Infatti, tu hai citato la DSL, possiamo dire che l'esperienza del cliente finale è appunto analoga, cioè io faccio l'abbonamento ad un operatore che mi offre l'accesso ad internet. Assolutamente. Dunque, per entrare nel vivo, voi avete coperto quanto territorio, visto che voi avete appunto progetti molto ambiziosi perché avete una licenza, avete licenze per coprire tutto il territorio nazionale, fino a questo momento dove siete arrivati? Allora, noi in questo momento siamo partiti con le installazioni in 5 regioni, che sono l'Umbria, la Puglia, la Toscana, la Lombardia e il Veneto. Questa partenza ha in questo momento diversi livelli di realizzazione per diverse ragioni, una delle quali è comunque la consueta difficoltà di avere i permessi per le installazioni delle antenne. Il processo non è immediato, quindi noi vorremmo arrivare alla fine dell'anno del 2009 a installare 1600 antenne, in questo momento ne abbiamo installati un centinaio, ma la macchina sale con una curva, diciamo, buona, quindi pensiamo di potercela fare, siamo leggermente in ritardo. In Umbria abbiamo coperto quasi tutto il territorio. Quanto costa? Costa in questo momento 10 euro, perché siamo in campagna dal punto di vista economico, per un'offerta base che sarà invece a regime di 15 euro. E tagli superiori i 10-15 euro sono per 4 megabyte in questo momento senza voce. Successivamente a partire da maggio-giugno avremo anche l'offerta voce, e le offerte saranno a questo punto scalettate per banda da 4 a 7 con diversi tagli di banda minima garantita, e per voce con diversi pacchetti di offerta sulla voce. Comunque, insomma, diciamo che il punto di partenza a regime, poi naturalmente come sempre quando i servizi vengono lanciati ci sono le offerte promozionali, ma a regime saranno 15 euro al mese. Se solo dati. Solo dati, euro. Che è interessante. Se io ho un servizio VoIP di altro operatore posso usare il telefono. Ma con riferimento a questa analisi che vi citavo prima, con riferimento alle zone in unbundling dove c'è un'altra offerta, è probabile che il cliente che abbia una soluzione voce, cioè che abbia il telefono a casa su linea fissa, voglia solo aggiungere il dato e si voglia tenere il suo numero di telefono. Sì. Può essere una modalità di commercializzazione. Certo, banalmente invece di prendersi una DSL da 19, quasi 20 euro, uno può prendere questo taglio. Però poi continuerà a pagare il canone e così via. No. Sappiamo tutta la questione, diciamo, sulla competizione, certo, sulle tariffe. Certo. Dunque, per quale motivo, a vostro modo di vedere, io dovrei scegliere, sono due le domande, scegliere il WiMAX se esiste anche l'alternativa a DSL? E la seconda domanda è perché scegliere il WiMAX se esiste l'alternativa telefonia mobile, che ha il vantaggio della mobilità? Io mi posso portare la mia chiavetta USB in giro per il mondo. Certo, se non esistono le alternative, non ho appunto alternative, quindi è un benvenuto il servizio WiMAX dove appunto sono state attivate le antenne. Allora, devo appunto precisare che sia nella volontà del governo quando furono messe a gara le frequenze, sia nel nostro business plan, in realtà la risposta è che la scelta per il WiMAX è legata al fatto che nelle zone in digital divide non c'è un'altra offerta, e noi abbiamo privilegiato nel business plan e nelle analisi che abbiamo fatto e anche nel processo con cui stiamo installando le nostre antenne le zone in digital divide, quindi andiamo ad offrire un servizio a famiglie e imprese che non avrebbero alternative. Dopodiché il business plan presentava dei livelli di competitività con altre offerte in un secondo momento. Dicevo prima che in realtà alcune delle verifiche le abbiamo anticipate e stiamo ottenendo una risposta positiva per diverse ragioni. La qualità del servizio, nel senso che poi diciamo bisogna considerare che quando noi in questo momento stiamo facendo i test 4 mega sono 4 mega quasi reali, mentre invece sulla DSL la velocità effettiva è una velocità molto più bassa. Il prezzo è leggermente più basso, ma quello che in questo momento funziona è il fatto che il WiMAX sia veramente un servizio plug and play con grande velocità di installazione, cioè all'ordine 2 giorni e mezzo di media in questo momento permettono al cliente di avere la scatolotta che attiva il servizio a casa e di attivarselo da solo, e questo sta funzionando perché i test poi sul call center dimostrano che non ci sono clienti, non c'è un grande numero di clienti che chiama per una ragione legata all'installazione. ...2024. Tra poco sarà con noi il direttore di Wired Italia, che arriva nel nostro paese, la mitica rivista americana. Sarà naturalmente una rivista diversa in italiano e fatta anche da italiani. Adesso è con noi Mario Citelli, amministratore delegato di Aria, che è il principale operatore del WiMAX in Italia. Il servizio è partito in Umbria, ci sono altri operatori che hanno lanciato il proprio servizio, in altre puntate ne abbiamo parlato. Una delle domande che spesso ci fanno alcuni ascoltatori che ci scrivono da aree che non sono coperte dall'ADSL, ci chiedono questi operatori quante persone minimo richiedono come abbonati per attivare i servizi in queste zone. Allora Citelli, qual è il minimo di abbonati che voi richiedete perché una area di copertura di una vostra antenna sia profittevole per il vostro business, quindi insomma il gioco valga la candela? Dai 200 ai 300, però poi voglio dire questa questione va mediata, nel senso che noi stiamo rispondendo ad alcune gare in cui alcune regioni sostengono con una parte di investimento pubblico per quanto riguarda la cosiddetta rete di trasporto zone a zero abitanti. La Liguria vuole fare la digitalizzazione delle fasce appenniniche e alpine, diciamo a est e a ovest, in corrispondenza di zone che intende ripopolare, quindi in quel momento è chiaro che chi va a mettere le antenne lo fa sostenuto da un programma pubblico pensando che ci possa essere un mercato. Questo è interessante perché fa capire quanto qual è il possibile, il potenziale valore anche sociale di Internet. A proposito di pubbliche amministrazioni, voi che vi occupate anche di Digital Divide, che insomma fa parte un po' del terreno di conquista per i vostri servizi, notate che tipo di sensibilità? Oh, enorme. Diciamo, noi facciamo riferimento, io personalmente, ma l'azienda fa riferimento a un dato che era stato citato ad un convegno, il convegno dell'Associazione degli Operatori di Telecomunicazioni Europei, Lettono a Venezia a settembre dell'anno scorso, in cui è stato esplicitato il dato che una rete di nuova generazione che possa distribuire banda larga a famiglie e imprese sostiene la crescita del PIL di un qualsiasi paese europeo sino al 2%. Quindi l'impatto fra questa tecnologia e lo sviluppo economico è notevole. Questo quindi è un problema di interpretazione del digital divide in senso lato, il cosiddetto digital divide di seconda generazione, cioè non è soltanto la ipotesi di fornire un servizio di accesso quasi di intrattenimento o di formazione, ma di fornire un servizio per le imprese, per lo sviluppo economico del paese. Su questo c'è una sensibilità molto molto forte. Bene, io ringrazio Mario Citelli per essere stato con noi, buon lavoro, a presto. Grazie a tutti e arrivederci. Come vi dicevo poco fa, adesso ci occupiamo di Wired. Tra pochi giorni arriverà in Italia la prima edizione internazionale di una delle più famose riviste dedicate alla tecnologia e all'innovazione. Saluto Riccardo Luna, che è il direttore di Wired Italia. Benvenuto a 2024. Grazie, buongiorno. Per chi non lo conosce, Wired è una delle colonne portanti del mondo dell'innovazione, se parliamo di giornalismo che si dedica a questo tema. Ora, Wired è un giornale leggendario che è nato nel 93 a San Francisco ed è praticamente per la tecnologia e l'innovazione quello che Rolling Stone è stato per la musica. Cioè è stato il giornale che prima e meglio di qualunque altro ha raccontato come stava cambiando il mondo, quindi ha raccontato la rivoluzione digitale che stava partendo dalla Silicon Valley e che da lì avrebbe cambiato tutte le nostre vite. È un giornale che parla di tecnologia, ma soprattutto parla delle grandi idee che cambiano il mondo, e le idee poi viaggiano attraverso la tecnologia è lo strumento che ci cambia la vita in tutti i settori della nostra vita, che quindi sono i computer, e spesso quindi parla anche di quello, ma anche il cibo, l'alimentazione, la salute, l'innovazione riguarda tutti gli aspetti della nostra vita, e la tecnologia è il filo rosso che tiene insieme tutti gli argomenti della rivista. Molte delle frasi o dei pensieri che a volte vengono citati, che riguardano il mondo della tecnologia, sono stati per la prima volta pubblicati su Wired. Per esempio è stato il giornale di Negroponte. Negroponte scriveva una celebre ultima pagina, colonna di ultima pagina su Wired, dove raccontava veramente prima di tutti gli altri quello che stava succedendo con la digitalizzazione e l'informatizzazione della nostra vita. E per esempio un'espressione di più recente come il crowdsourcing è stata inventata da un giornalista di Wired. Oggi la freakonomics, cioè l'economia del free, che poi per esempio è il modello di Google fondamentalmente, del gratis, è stata inventata dall'attuale direttore di Wired, che è Chris Anderson. Senti Riccardo, voi dalla prossima settimana porterete in Italia questo progetto. Tra l'altro questo, se non sbaglio, è la prima rivista che sbarca in un paese extra USA. Sì, due mesi dopo arriverà anche l'edizione inglese. È abbastanza bizzarro, ma noi di questo siamo molto orgogliosi, il fatto che esca prima in Italia. Siamo arrivati primi, evidentemente abbiamo trovato anche molti incoraggiamenti tra i potenziali lettori, perché questo è un progetto che non è che è nato ieri, ci è voluto moltissimo tempo. Io dico spesso che Wired, portare Wired in Italia è un sogno lungo 10 anni. Wired è stato fondato da un italiano, intanto Luis Rossetto, il fondatore di Wired, è un italiano. Sì, che si è messo figlio a fare la cioccolata. Sì, adesso. Sono stato al Pier 17 di San Francisco, c'è la sua fabbrica di cioccolata tecnologica, si chiama Cho. E lui è un italiano che 10 anni fa è venuto a fare molti incontri in Italia col tentativo di portare Wired anche in Italia, e non era evidentemente il momento. Sono stati fatti poi dei numeri zero di un Wired italiano nel 2001, ma non era evidentemente il momento, e poi lo scoppio della bolla di internet, del primo internet, sconsigliò a tutti dal partire con un giornale di innovazione e tecnologia in quel periodo. E poi invece un anno fa è partito il progetto, e devo dire, dopo un anno di ricerche, incontri, tantissimi focus group che abbiamo fatto, abbiamo capito che in Italia c'è dell'innovazione da raccontare, quindi c'è uno spazio per un giornale così, uno spazio ecco, importante. Voi portate in Italia una rivista che è una rivista di carta. perché dovrei acquistare una rivista di carte in un mondo che si sta sempre più spostando in rete? E del resto poi la stessa Wired racconta questo spostamento, questo cambiamento di scenario. Ma io sono convinto che... Io sono un navigatore assiduo, diciamo, ma nessun media ha cancellato gli altri. La radio non ha cancellato i giornali quando è arrivata, la TV non l'ha cancellata nemmeno, adesso neanche internet li cancella. Costringe i giornali a cambiare. I giornali devono cambiare, è chiaro che non possiamo competere, un quotidiano non può competere sulla velocità e sulla quantità rispetto a internet. Internet arriverà sempre prima, avrà sempre più cose, però può competere su altre cose, sulla qualità, sull'approfondimento, e in più un magazine è un'altra roba, è una cosa ancora diversa, cioè quello che in America chiamano il packaging, il mix tra immagini, design e grandi storie. E su internet non lo trovi. Su Wired tu leggi una storia di 20.000 battute, che è una grandissima storia che magari che davvero ti cambia la vita. Su internet fatichi a leggere 20.000 battute scrollando lo schermo, e quindi c'è spazio per tutto. Devi cambiare linguaggio. C'è un linguaggio per la rete, c'è un linguaggio per i magazine, ce n'è uno per la radio e uno per la televisione. Devo dirti che noi abbiamo puntato moltissimo sulla rete, e il vero lancio di Wired non l'abbiamo fatto online. Abbiamo creato una specie di Wired Social Club che ha dato dei frutti clamorosi. Cioè noi siamo 100 giorni prima della arrivo di Wired in edicola, ci siamo presentati in tutti i social network e abbiamo detto: noi siamo qui, facciamo il giornale insieme. Abbiamo fatto un countdown dove giorno per giorno, attraverso Twitter, Tumblr, Facebook, tutto quello Flickr, YouTube, abbiamo raccontato quello che stava succedendo in redazione. Questo ci ha consentito di creare un club grandissimo di gente che partecipa alla fattura del giornale, e per esempio ci consente di partire con 31.000 abbonati per 2 anni, fatti in gran parte attraverso la rete. Cioè, quindi la rete è uno strumento fondamentale. Io sulla rete posso dire in questo momento in diretta che sto parlando con te, e lo dico a quelli che mi seguono su Twitter e lo sanno. È chiaro che poi sul magazine non glielo racconto perché diventa una notizia vecchia. Certo. Senti, quando parliamo di innovazione, per voi che cos'è l'innovazione? Quindi che cosa racconterete? Chris Anderson, quando è venuto recentemente a Roma, ha detto che il segreto della Silicon Valley è l'accettazione del fallimento, the acceptance of failure, quindi il piacere del rischio. Ecco, in Italia questo piacere del rischio non c'è. Io credo che questo dobbiamo ritrovare la voglia di rischiare per inventare delle cose che ci migliorino la vita. Per noi intanto la tecnologia che a noi interessa è soltanto la tecnologia che ci migliora la vita. Una tecnologia che rovina il pianeta, che fa dei guasti irrimediabili, che provoca guerre o che aumenta il global warming, non è una tecnologia positiva. Quindi a noi interessa l'altro, a noi interessa il fatto che con la tecnologia che oggi abbiamo siamo in grado davvero di risolvere i grandi problemi del mondo. Ci interessano le persone che lavorano per questo. Ecco perché io spesso dico che Wired è un giornale che è una fonte di energia rinnovabile. L'energia rinnovabile è l'entusiasmo delle persone che tutti i giorni si inventano delle cose nuove per migliorarci la vita. Senti, qual è l'equilibrio tra i contenuti originale di Wired americano e quelli creati da voi, perché immagino che ci saranno alcuni contenuti irrinunciabili che arrivano dalla casa madre. Guarda, irrinunciabili senz'altro, loro hanno un modo di fare giornalismo che a noi affascina, non solo il punto di vista così forte sulle cose. Loro non fanno un giornale di dibattito, loro ti raccontano le cose con un fortissimo punto di vista perché le hanno studiate. Cioè, magari mandano un giornalista 6 mesi in una base spaziale, dopo 6 mesi lui è sicuramente in grado di dirti delle cose che nessun altro è in grado di dirti, ma fanno degli investimenti sulle persone, sul tempo, per tirar fuori delle storie che sono imbattibili. Ecco, quelle storie noi le porteremo e cercheremo di produrne altrettante. Cioè, a noi piacerebbe raccontare molto anche l'innovazione italiana, piacerebbe diventare il network, contribuire a diventare un network di innovazione e di innovatori italiani, quindi moltissimo anche, moltissima Italia e moltissima innovazione del mondo con degli occhi italiani. Per esempio, è chiaro che per gli americani, per dire, gli OGM sono un dato acquisito, per la cultura italiana lo slow food è magari un dato acquisito, quindi ci sono delle sensibilità diverse sul cibo, sulla salute e su altre cose. Quindi io preferisco riraccontare il mondo con dei nostri occhi, dove è necessario, e poi raccontare molta Italia. Tu hai detto che parlare di innovazione non è facile, nonostante ci sia innovazione, ci sia anche molta ricerca, molti ricercatori. Per quale motivo, a tuo modo di vedere, è difficile? Perché che sia difficile è oggettivo, parlare di innovazione, di tecnologia. No, intanto io credo che i media siano, per pigrizia probabilmente, per una ripetizione di gesti quotidiani, abituati oramai a raccontare soltanto drammi ed emergenze. Se sfogliamo i quotidiani o guardiamo i telegiornali, noi passiamo da un dramma a un'emergenza sociale all'altra ogni 3 giorni c'è un dramma che poi sparisce. In realtà poi, cioè, non sono drammi, sono problemi che ci sono sempre, ma amplificano soltanto. È come se noi potessimo catturare l'audience o catturare i lettori soltanto spacciando delle notizie allarmistiche. In realtà ci vuole un po' più di fatica a volte a scoprire delle altre notizie che magari invece sono altrettanto importanti o più importanti. Io spesso racconto che una volta Anderson venne a Milano, è stato 6 mesi fa credo l'ultima volta, e mi ha fatto una domanda seria, mi ha detto: tu conosci Arduino, conosci Massimo Banzi? Io francamente non avevo idea di chi fossero. E lui mi ha detto: Massimo Banzi è responsabile del più grande progetto del mondo di computer, di hardware and open source, e voi in Italia non avete neanche idea di chi sia. Lui sta qua a Milano accanto a te. Allora io sono andato su Wikipedia, l'enciclopedia online, nella versione italiana, ho cercato Massimo Banzi Arduino, non c'era niente. Allora ho detto: beh, forse non sono così ignorante. Allora sono andato nella versione inglese, c'erano 20 pagine, nella versione francese c'erano altre 20, nella versione cinese c'erano anche di più, perché intanto i cinesi avevano copiato la scheda di Arduino e non avevano fatta una che si chiamava Beduino, un'altra che si chiama Friduino, eccetera eccetera. E allora io mi dico: possibile che in Italia non c'era un giornalista che fosse andato a scoprire Massimo Banzi e perché il suo progetto poteva essere così importante per cambiare il modo in cui si usano i computer nel mondo? Ecco, io credo che ci voglia a volte un po' di pigrizia in meno e molta curiosità in più. Ecco, quando mi chiedono chi è il lettore tipo di Wired, deve essere uno curioso. Entrando poi nello specifico, secondo te su che cosa bisogna avere attenzione? Allora, ti dico due cose subito. Uno, secondo me, è internet. Una volta, parlando con Antonio Campoallorto, il capo di MTV Italia, vice capo, il numero 2 di MTV Mondiale, lui mi ha detto: a me non preoccupa tanto che un italiano su due non vada su internet, ma che non si lamenti perché non ci va. Cioè che non si renda conto di quanto può essere importante, di quanto ti può cambiare la vita poter avere un posto dove hai un certo tipo di informazioni, dove ti puoi connettere con gli altri, dove puoi fare delle robe, puoi inventarti un'impresa nuova. Cioè il fatto che non si senta il bisogno di questa cosa è un deficit culturale, evidentemente, questo che dobbiamo colmare. Io vorrei che Wired rendesse popolare la parola innovazione. Non è una parola da addetti ai lavori o da geek o da informatici o da uomini d'affari, è la sfida cruciale del nostro futuro. Quando in India decidono di dare a tutti gli studenti un computer a $10, francamente hanno capito che da lì si riparte. Devi ripartire dando a tutti gli strumenti per innovare davvero, ripartendo dai ragazzi, dalla scuola, che probabilmente è il vero punto debole di questo paese. Riccardo, grazie di essere venuto nei nostri studi, bocca al lupo. Grazie a voi, dorme il lupo. Si chiude qui questa puntata di 2024, come sempre un ringraziamento per la vostra attenzione, un grazie anche a chi scarica settimana dopo settimana il file MP3 della nostra trasmissione grazie al servizio podcast di Radio 24. Il nostro indirizzo di posta elettronica, se volete comunicare per qualsiasi motivo con noi, 2024, quindi 2024, @radio24.it. Grazie a Luigi Borghi che ci ha aiutato in redazione, che mi ha aiutato in redazione. 2024 torna la prossima settimana, sempre nel pomeriggio del sabato di Radio 24. Ci occuperemo in modo particolare del mondo della mobilità, della telefonia mobile, con tutte le notizie in arrivo la prossima settimana dal Mobile World Congress, la più importante fiera dedicata al mondo della telefonia e della mobilità. Grazie, io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo tra 7 giorni. You are disconnected.